La preghiera è ogni forma di comunione con Dio. Essa abbraccia la supplica, l'adorazione, la lode, l'intercessione e la richiesta. Anagrammando le cinque forme di preghiera si ottiene la parola salir. Personalmente aggiungerei una E per formare salire, perché in preghiera mi sento di esternare tutti i miei problemi. Pochissime volte ho trattato l'argomento della preghiera, anche se vi ho accennato in tanti scritti. Mi sento imbarazzato trattando un argomento così intimo e personale, e mi domando chi sia io da osare di entrare in una relazione così profonda come quella del Creatore con la sua creatura. Inoltre, la mia relazione intima con Dio non può essere presa a paragone o imitata da altri. Sarebbe stato assurdo da parte del profeta Elia pretendere che tutti i suoi contemporanei vestissero con un abito di pelo e portassero una cintura di cuoio intorno ai fianchi, o da parte di Giovanni il Battista che tutti vivessero nel deserto cibandosi di miele selvatico e di locuste. Con il passare del tempo mi sono reso conto che la preghiera deve essere considerata come un'arte, poiché anch'essa è soggetta a delle regole. Prima ancora di diventare figlio di Dio, pregavo il mio Creatore spontaneamente in qualsiasi momento della giornata, lo ringraziavo ogni volta che notavo un portatore di handicap per la mia salute e pregavo Dio perché mettesse una mano misericordiosa sulla sua vita. Ma gli impulsi istintivi anche nel campo spirituale non sono una garanzia della volontà di Dio. A seguito della conversione ho compreso che la preghiera deve essere guidata intelligentemente dallo Spirito Santo. Così, queste riflessioni sono il risultato delle mie esperienze. La prima cosa che ho notato leggendo la Scrittura è che essa ci ordina di non cessare mai di pregare. Dio vuole da noi non tanto qualche preghiera, ma uno spirito di preghiera, un atteggiamento di comunione e di sottomissione al nostro Salvatore. Questo atteggiamento viene espresso mentre parlo, mangio, guido l'auto, lavoro, dormo, leggo, predico. Lo stato normale del cristiano è quello di comunione con Dio, e nel momento in cui non sono in comunione con Lui, la mia vita di preghiera viene interrotta. Non ho quindi bisogno di pregare per le normali attività della vita. È sufficiente essere guidati dallo Spirito Santo per produrre i suoi frutti, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ho detto però che con il tempo ho compreso che la preghiera è soggetta a delle regole. La preghiera, non lo spirito di preghiera, quell'atteggiamento di comunione con Dio. Quando un uomo è guidato dallo Spirito Santo non è soggetto alla legge, Galati 5:22, ma quando desidera formulare delle richieste a Dio deve considerare che esse non sono sempre esaudibili. La Scrittura mette in risalto che per essere esauditi vi sono delle condizioni. Mi limiterò a citarne quattro. 1. Salmo 66:18. Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato. Per essere esauditi occorre avere purezza di intenti. Dato che il nostro cuore è insanabilmente maligno, l'ostacolo più grande all'esaudimento sta in noi. Si può chiedere di servire Dio per non incontrare le difficoltà di un ambiente di lavoro, si può pregare per la guarigione per non soffrire dolori fisici, si può chiedere la pace per non dover lottare per la fede. 2. Proverbi 28:9. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Per essere esauditi occorre essere coerenti. Vi sono credenti che hanno ardore per le anime, ma sono disonesti negli affari. Una simile condotta disonora il nome di Dio. 3. 1 Pietro 3, 7. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Per essere esauditi i mariti devono onorare la moglie. Non sono pochi i mariti che desiderano servire il Signore e trattano male le loro mogli. Onorare la moglie significa riconoscere in lei le sue virtù. Non solo. Il marito onora la moglie anche quando avrebbe motivo di arrabbiarsi, ma si contiene. 4. Giacomo 1, 6 a 8. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti, generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare. Perché? Chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Per essere esauditi dobbiamo credere che Dio mantenga quanto ha promesso. Questo comporta da parte del credente un impegno serio per conoscere tali promesse. Si sa che non tutte le promesse contenute nella Scrittura sono valevoli per tutti, ma Giacomo non fa distinzione per ciò che riguarda la promessa della saggezza, perché essa Dio la dona a tutti generosamente, non solo la dona, ma anche abbondantemente. Queste dunque sono alcune condizioni per essere esauditi da Dio. Non è quindi vero, come alcuni insegnano, che Dio risponde sempre ad ogni preghiera o con un sì, con un no, o aspetta, intendendo dire che ogni preghiera è comunque ascoltata e riceve una risposta. Se non si rispettano queste condizioni, anche la preghiera più fervente non è né ascoltata né esaudita, né riceve una risposta. Esaù chiese con lacrime di essere benedetto, ma non fu esaudito, Ebrei mezzogiorno e 17, perché aveva trasgredito ad almeno a 3 principi, nel suo cuore aveva tramato del male, non aveva ascoltato le parole di Dio, non vi aveva creduto. E, dunque, indispensabile ricordare le dure e solenni parole di Dio. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte, in città, pronunzia i suoi discorsi. Fino a quando, stolti, amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. Poiché, quando chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione. Non ne avete voluto sapere, anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzato ogni mia riprensione, si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Proverbi 1, 20-32. In questo scritto non mi rivolgo a chi ha il ministero della preghiera. Come esistono i doni di guarigione, di profezia, di insegnamento, di esortazione, di presiedere, così vi sono persone che hanno un'attitudine particolare alla preghiera. Essi rimangono per ore alla presenza di Dio. Per loro la preghiera implica difficoltà e angoscia, lottano con lacrime, Colossesi 4 e 12, per la causa del regno di Dio. Non posso dire che queste persone hanno il dono della preghiera, perché essa non è elencata nei doni citati nella Scrittura, ma hanno certamente una disposizione particolare verso la preghiera. In questo scritto mi riferisco a te, a me, che non abbiamo questo ministero di preghiera. Forse anche tu, come ho fatto io, ti sei chiesto per cosa bisogna pregare innanzitutto e come pregare in certi momenti particolari della vita. La Scrittura dà delle indicazioni precise che è bene conoscere e applicare. 1. Matteo 5, 43-45. Pregare per quelli che ci maltrattano e ci perseguitano. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, finché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Capita a tutti prima o poi di avere dei nemici, di imbattersi in qualcuno che non si

è la preghiera del credente che è cosciente della sua debolezza e della sua fragilità. Con questa preghiera, il cristiano chiede a Dio di non esporlo alla tentazione, ma non chiede a Dio che il maligno non lo tenti, perché sarebbe come chiedere a Dio che il sole non lo scaldi. Il maligno per sua natura ci tenterà sempre, quindi chi è cosciente di essere molto debole chiederà a Dio di non metterlo in condizione di essere tentato. Solo una persona cosciente della propria debolezza può fare questa richiesta. Gesù ha ordinato: pregate per non cadere in tentazione. Questo ordine può essere interpretato in due modi. O dobbiamo pregare perché le circostanze non ci inducano alla tentazione, oppure dobbiamo pregare affinché possiamo resistere alla tentazione. Probabilmente tutte e due le interpretazioni sono giuste. Se noi preghiamo, difficilmente ci troveremo in condizioni tali da essere tentati, e nello stesso tempo, se preghiamo, difficilmente cadremo nella tentazione. La tentazione è una prova, una sfida alla nostra debolezza, e la preghiera può evitare questa tensione. Mi chiedo se tante vite di cristiani piene di tentazioni, di prove travagliate, non siano il risultato della mancanza di preghiera. Se quello che Gesù ha detto è vero, allora la preghiera allontana le tentazioni, le fa evitare. La preghiera impedisce di cadere nella tentazione. Abbiamo capito l'importanza di questa preghiera. Dobbiamo esaminare le nostre vite chiedendoci se le tentazioni che subiamo siano il risultato di mancanza di preghiera. La tentazione non è un peccato, e questo va ribadito. Tanti credenti mi domandano se peccano quando certi pensieri passano per la loro mente. Un pensiero non è peccato, ma lo sbaglio è soffermarci su di esso. E così vale per lo sguardo. Qualcuno disse che il primo sguardo è inevitabile, il secondo è peccato. Il peccato è fare una cosa, la tentazione è la proposta di farla. La mia natura è piena di stimoli ingannatrici, di proposte sbagliate, ma questo non significa che sto peccando. Pecchiamo se assecondiamo tale inclinazione. La preghiera produce il risultato di evitare tali tensioni, queste proposte, inclinazioni, e produce la vittoria sulla nostra natura corrotta. Abbiamo compreso questo? Faremo della preghiera un'arma contro la tentazione? 3. 1 Corinzi 7, 1 a 5. Pregare come coppia. Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccar donna, ma, per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi alla preghiera. E poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Il matrimonio si presenta come una delle cellule più malate della società. Si cerca, e si è sempre cercato, un rimedio a tale problema. E ciò è giusto. Ma evidentemente l'uomo non ha una soluzione. Dal momento che i divorzi aumentano e le coppie felici sono sempre più rare. La parola di Dio tratta diffusamente del matrimonio, prende coscienza dei problemi matrimoniali e dà una soluzione che chi la mette in pratica sa che è la giusta medicina. Mi riferisco alla preghiera. La parola di Dio considera i rapporti sessuali nel matrimonio come una pratica normale, stabilendo parità di diritti. Come il marito non ha autorità sul proprio corpo, così pure la moglie non l'ha sul proprio. Mi chiedo se questo principio non sia in contrasto con il modo di vedere di alcune donne che riguarda l'aborto affermano: il corpo è mio e faccio quello che voglio. Esse devono tenere conto anche del parere del marito. L'apostolo Paolo consiglia agli sposi di astenersi dai rapporti sessuali per un breve periodo onde dedicarsi alla preghiera e al digiuno. Alcune manoscritti in greco omettono il digiuno. È triste che i cristiani fatichino a credere e ad osservare quanto è scritto. Così, se anche i matrimoni dei cristiani non vanno molto bene, credo che il motivo sia la mancata osservanza di questo consiglio. E Chiaro che per pregare insieme è necessario che i coniugi siano d'accordo. Se uno si astiene ciò, diventa un problema. Può essere di aiuto citare due motivi per cui un coniuge non prega. A. Vi sono mariti o mogli che non pregano con il loro partner per vergogna. Molto probabilmente perché si giudicano meno spirituali, meno ferventi del coniuge. Cosa fare? Il coniuge che prega deve farlo in modo conciso per incoraggiare il partner. Il coniuge che non prega deve vincere il suo stato d'animo e dire anche solo due parole, ma comunque aprire la bocca. Se le difficoltà persistono, è bene consultare un terzo fratello o sorella per aiutarli. B. Il secondo caso è più complicato. Vi può essere che un coniuge abbia una vita di preghiera, ma poi si rivela individualista. Noi siamo degli individui, abbiamo la nostra personalità, le nostre peculiarità, ma non dobbiamo essere individualisti, cioè far prevalere le esigenze personali a discapito o in antitesi alle esigenze del prossimo, che in questo caso è il coniuge. Questo è vivere o considerarsi indipendenti dal coniuge per ciò che riguarda la preghiera. In questo caso, il coniuge che non prega ha i suoi momenti di preghiera. È una persona con una certa sensibilità spirituale, ma non sente il bisogno di pregare con il suo partner o non ne vede la necessità. Se le cose stanno così, ecco due suggerimenti. Se non preghi perché non ne senti il bisogno, inizia a pregare con il tuo compagno barra a per fede, sapendo che Dio vuole che gli sposi preghino insieme. Se invece non ne vedi la necessità, considera se il tuo matrimonio è veramente quale Dio si aspetta. Il Signore ha disposto la preghiera quale cemento per rendere solido il matrimonio. Secondo me, se due sposi cristiani non pregano assieme e continuano ad essere uniti, è veramente un miracolo. È un atto di misericordia di Dio. Attenzione però di non tentare Dio, perché il crollo può venire da un momento all'altro. Io invito quindi ogni coppia a pregare assieme il più possibile. Questo invito lo rivolgo in modo particolare a coloro che si vergognano, perché se vincono il loro stato d'animo, saranno più forti di chi espugna una città, e a coloro che per carattere, per una loro personalità forte, vivono una vita di preghiera individualista. In questo modo faranno del bene prima a loro stessi, poi alla famiglia. 4. Matteo 9, 35-38. Pregare per gli operai. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe». Gesù, vedendo le folle come pecore senza pastore, ordina ai discepoli di pregare il Padre perché provveda. Non ha detto di darsi da fare, di raccogliere denaro, di consigliare delle persone, di dire al Signore che sì, è una necessità, di mandare delle persone, ma di pregare Dio, perché spinga degli operai. Riguardo alla qualità di persone che Dio deve mandare, non ha detto di chiedere di mandare degli studenti, dei teologi, dei leaders, ma degli operai. Il nostro primo compito è di ottenere gli operai di cui il Signore ha bisogno per i vari compiti nella sua vigna. Dobbiamo dunque pregare perché Dio spinga degli operai. Il verbo spingere dà l'idea che le persone siano costrette dalle circostanze a dedicare la loro vita al regno di Dio. Così commenta l'ebreo Martin Goldsmith nel suo libro Le relazioni interpersonali di Gesù. Il termine tradotto con spingere è un'espressione violenta che significa letteralmente scagliare fuori, il che implica che le persone possono essere naturalmente resti a pagare il prezzo di abnegazione richiesto. Perché pregare il Signore della vigna? Per almeno due ragioni. A. Il pericolo più grande nell'opera cristiana è indubbiamente il fatto che vi sono degli operai che vi si dedicano senza essere stati mandati da Dio. Solo Dio conosce a fondo le persone e una persona, per me idonea, può non esserlo per Lui.